Un benvenuto da Maurizio Melis. La puntata di Mr. Kilowatt di questa sera è dedicata a una tecnologia non nuova, ma che sta incontrando sempre più occasioni di applicazione. Parliamo delle pompe di calore. Che cos'è una pompa di calore? È qualcosa di molto simile a un frigorifero usato al contrario. Dietro ad ogni frigo, infatti, c'è una serpentina che disperde calore nell'aria. E da questo punto di vista il frigorifero non è altro che una pompa che appunto estrae calore dall'interno già freddo del frigo e lo immette nell'aria a temperatura pur più elevata della cucina. E questo cosa significa? Significa che se si dispone di un serbatoio di calore abbastanza ampio, come per esempio l'acqua di un fiume, oppure del mare, oppure l'aria, oppure il terreno, è possibile estrarne il calore anche se questi si trovano a temperatura relativamente bassa. E si tratta anzi di una procedura che può essere estremamente efficiente per il riscaldamento degli ambienti e che ha anche numerose varianti. E questo quello che cercheremo di approfondire questa sera. Lo facciamo facendoci aiutare dal professor Cesare Ioppolo del Politecnico di Milano. Buonasera Ioppolo. Buonasera a voi. Allora, senta, abbiamo detto a grandissime linee che cos'è una pompa di calore. Non so se lei vuole aggiungere qualcosa alla mia definizione, magari un po' troppo grezza, però c'è un numerello, ecco questo sicuramente con il quale dovremo tentare di entrare un po' più in confidenza anche per continuare la nostra conversazione, ovvero il COP. Quindi le chiedo di spiegarci questo, salvo che non abbia da aggiungere qualcosa. No, direi che la sua spiegazione è stata assolutamente sintetica e efficace. La pompa di calore non è una tecnologia nuova, ma ha subito importanti evoluzioni e sicuramente una delle evoluzioni importanti è quella che ha spostato e continua a spostare sempre più in alto quel parametro di efficienza che lei ha citato, il COP, coefficiente di prestazione, che è il rapporto tra l'energia, il calore che riusciamo a ottenere dalla macchina e l'energia che noi spendiamo per ottenere quel calore. Ecco, quant'è più o meno questo numero? Questo è un numero fortemente variabile, sì? Dipendente da molte condizioni. Per esempio, adesso usando l'idea delle classi A, adesso in classe A una pompa di calore è posta quando ha un COP superiore a 3,6. Quindi vuol dire che ottiene 3,6 volte il 360% dell'energia che si spende per farla funzionare. Perfetto. Che vuol dire che, siccome l'energia non viene creata, quella 360% a fronte del 100 speso è ottenuto sottraendo calore all'ambiente. Che deve essere abbastanza ampio e, come dire, certo, insensibile a queste variazioni di temperatura, no? Assolutamente sì, quindi usiamo l'aria atmosferica, usiamo l'acqua di un lago, laghi, insomma, certo. L'acqua di falda, il terreno, cioè ambiti naturali che poi per effetto del bilancio globale del pianeta reintegrano quell'energia. Proprio di recente è stata equiparata da una direttiva europea la pompa di calore a una fonte rinnovabile addirittura. Lei è d'accordo? Sì, io quindi condivido e trovo questa direttiva europea, che è molto concreta, un passo avanti, perché correttamente individua le pompe di calore come un sistema per utilizzare energia rinnovabile che è presente in ambiente. Ecco, quali sono quindi le applicazioni potenziali e i limiti? Per esempio, non sarà la stessa cosa estrarre calore dall'aria, dall'acqua? Quali sono le temperature entro cui questo sistema funziona? Quanto pesa il clima? Cerchiamo appunto di semplificare, ma al tempo stesso di non dimenticare delle cose. La pompa di calore può essere utilizzata per riscaldare, è un sistema di riscaldamento, in quanto tale è in competizione con altri sistemi di riscaldamento, dai più convenzionali, le caldaie, a altri sistemi come possono essere i collettori solari o altro che consenta di riscaldare. In realtà la pompa di calore è un sistema che consente non solo di riscaldare ma anche di raffreddare, quindi che può essere utilizzata a seconda dei periodi dell'anno sia come un sistema di riscaldamento che come un sistema di raffrescamento. E certo, essendo la pompa di calore fondamentalmente un frigorifero, riesce, esatto, può essere utilizzato in tutte e due le direzioni. Esatto. E questo è importante perché bisogna fare il confronto tra la pompa di calore e due impianti, quello di riscaldamento e quello di raffreddamento, che altrimenti, certo, vanno installati entrambi. Sì, in molti casi vengono installati entrambi o in alcuni casi viene fatto un unico sistema, ma che poi è interfacciato con due generatori, una caldaia che produce caldo e una macchina frigorifera che produce freddo. Dobbiamo andare molto veloci e chiudere, le chiedo, facciamo l'ipotesi di una villetta, che temperature ci devono essere all'esterno perché sia utilizzabile una pompa di calore? Mi riferisco ovviamente alle pompe di calore ad aria, perché ad acqua o a temperatura del terreno è costante tutto l'anno, quindi in quel caso problemi non ce ne sono di clima. Attualmente direi che molte case produttrici forniscono le pompe di calore che funzionano con temperature dell'aria esterna fino a meno 20. Quindi possiamo consigliarla in questi casi. Al limite di temperatura c'è poi un aspetto, ma forse ci torneremo un'altra volta, di prestazioni, cioè quel coefficiente di prestazione di cui dicevamo dipende fortemente dalle temperature e quindi bisogna stabilire fino a che temperatura è conveniente e quando è accettabile utilizzare una pompa di calore rispetto a altri sistemi. Quanti giorni freddi soprattutto ci sono in un anno? Perché al di là della temperatura di funzionamento, se poi va a quel regime per 100 giorni all'anno o per 20, i consumi sono completamente diversi. Esatto. Va bene, grazie mille Ioppolo. Grazie a lei, a risentirci. Buonasera.